351. Sformato di riso con le rigaglie. Riso grammi 150, parmigiano grammi 30, burro grammi 20, latte circa decilitri 7, uova numero 3, sale quanto basta. Cuocete il riso nel latte unendovi il burro, salatelo e in ultimo, quando è ghiaccio, aggiungete il resto. Versatelo in uno stampo liscio col buco in mezzo e la carta imburrata sotto. Mettetelo per poco tempo, onde non indurisca, a bagnomaria. Sformatelo caldo e guarnitelo con le rigaglie in mezzo. Questa dose potrà bastare per 5 persone.